ho reagito, diciamo, non con tanto stupore, cioè nel senso che poi chi veramente dichiara platealmente un'opposizione, questa cosa fa abbastanza impressione, perché solleva, diciamo, un caso che non è soltanto un caso personale, ma in qualche modo è un caso politico, è un caso collettivo. E dall'altra parte, perché molte persone in realtà poi a un certo punto decidono che basta finire a scuola e liberarsi di un'esperienza che per molti è un'esperienza negativa, o comunque un'esperienza frustrante, e quindi questo chiaramente è il sintomo anche del valore che molto spesso purtroppo viene dato alla scuola e che la scuola non sa ribaltare. Però mi colpisce molto perché è un tipo di espressione che sembra un po' quella di Bartleby, preferirei di no, cioè nel senso che fare scena muta è una forma di rivolta, di ribellione o di contrasto, eccetera, eccetera, che non prevede un'azione ma prevede, cioè, una sottrazione. La cosa che mi ha colpito ancora di più è l'atteggiamento degli adulti, che siano educatori, presidi, insegnanti, diciamo, chi ha commentato questo atto, perché semplicemente confermato quello che lo studente voleva mostrare, e cioè che non si può trasmettere e imporre il senso di un processo educativo se quel senso non viene condiviso. Per quanto uno possa mettere delle regole che in qualche modo indichino un senso, indichino un valore, se quel valore poi in sostanza non viene recepito per tante ragioni diverse, qualunque imposizione, qualunque regola poi diventa inutile, insomma. Nelle parole poi che appunto si leggono nell'intervista a questo ragazzo viene messo in evidenza, secondo me, come dire, un'opposizione tra quello che è il valore della persona e la performance che invece la scuola richiede. È questo il frame su cui ragionare? Sì, questo è il tema ragionare, che non è semplicemente una questione tecnica, l'esame di maturità, come dovrebbe essere fatto, come non dovrebbe essere fatto. È vero che negli ultimi anni la tensione su una prestazione individuale è sempre più forte, cioè io, come dire, spesso dico ai miei studenti, cioè l'esame lo fa tutta la classe, cioè studiate insieme, è un rito di passaggio anche, ma è un rito di passaggio, cioè, a scuola sì, ma in classe, cioè, ci sostiene, si ragiona insieme, mentre l'idea che poi a un certo punto tutto quello che conta di quei 5 anni sia quel punteggio, per una serie di ragioni, perché magari con quel punteggio si accede a delle facoltà universitarie e senza quel punteggio non si accede alle facoltà universitarie, perché c'è anche un imbalzi che viene legato a quel punteggio, al prodotto di questi dei 5 anni di studio, perché poi appunto sempre di più all'esame di Stato viene richiesta una performance per cui bisogna inventare il capolavoro, portare un qualcosa che mostri la propria eccellenza. Ecco, tutto questo chiaramente poi incide, secondo me, nel senso di quel rito di passaggio, che non diventa più un rito di passaggio collettivo, ma diventa, insomma, quasi un quiz in cui tutto quello che si è fatto precedentemente, cioè tutto quello che si è insegnato precedentemente, che ha avuto, come dire, dei grandi momenti di studio collettivo, pensiero collettivo, relazione educativa, viene poi a cadere su quanti centesimi ho preso. E uno può anche dire: a me non mi interessano quanti centesimi prendo, però il problema è che poi al sistema educativo quanti centesimi hai preso invece interessano. E questo, secondo me, è il tema che viene sollevato da quel ragazzo, che per quanto uno possa dire: a me il voto non conta per studiare, poi a un certo punto però per i professori il voto conta, per i genitori il voto conta, per il registro elettronico il voto conta, per capire chi sei il voto conta, quindi perché io dovrei prescindere da questa infinita retorica del voto e non provare, diciamo, a metterlo in discussione? Non so se quanto consapevole o meno, però questo ragazzo, insomma, si rifà anche a una corrente di pensiero educativa che contesta una valutazione fatta in questo modo. Possiamo tornare a fare discorsi alla Don Milani, eccetera, eccetera, però comunque è ancora un dibattito forte nella scuola? Allora, per fortuna negli ultimi anni la scuola italiana si è sviluppato una riflessione, insomma, tra le più interessante, anche dalle più qualificate da un punto di vista scientifico, sulla valutazione, la differenza tra una valutazione sommativa e una valutazione formativa, educativa. E proprio in questi giorni è uscito il libro di Cristiano Corsini che si chiama La fabbrica dei voti, è uscito qualche anno fa un libro che si chiama La valutazione che educa. Si è formato negli ultimi anni un comitato di valutazione educativa che riunisce le docenti, i docenti che in qualche modo provano a ripensare i modelli di valutazione a partire, appunto, non in un feedback numerico, semplicemente appunto classificatorio, ma invece usano la valutazione come uno strumento di relazione educativa molto serio, molto qualificato. Insomma, ci sono veramente un sacco di docenti e docenti che lavorano con delle sperimentazioni che non sono neanche più così singolari, ma insomma sono ormai strutturate, si vedono i risultati in molti istituti. Quindi questo ragazzo magari chiaramente non ha la consapevolezza di un discorso che parte sicuramente da Milani, dall'Erba d'Olio, che era un gruppo di insegnanti che già negli anni 70 mettevano in discussione il concetto di voto numerico, ma sicuramente sente che un sistema che fa della valutazione semplicemente una classificazione è insufficiente, non risponde a un senso. Di nuovo qui mi colpisce molto questa reazione degli adulti, che di fronte a una presa di parola, anche un'autonomia che uno può anche pensare che sia sbagliata, però insomma è un gesto di autonomia, poi reagiscono in maniera pavloviana, cioè non si fa, non lo deve fare, bisogna mettere altre regole, doveva capirlo, non l'ha capito, ho capito, ma quella persona non è semplicemente non l'ha capito, magari l'ha capito e non è d'accordo, e questo penso che sia, come dire, fondamentale nella relazione educativa, anche se possiamo pensare che quel gesto sia un gesto di responsabilizzazione, insomma è un gesto fatto con consapevolezza, e quindi quella sottrazione, cioè io ci vedo un pieno, non ci vedo un vuoto, un po' come è accaduto anche in questi anni, sta accadendo in questi anni sul fenomeno delle grandi dimissioni, insomma molte persone che preferiscono lasciare il posto di lavoro perché non il lavoro a tutti i costi, ma un lavoro che contempla la dignità delle persone di avere insomma anche un tempo di vita di qualità. Ecco, questo non lo vedo assolutamente come una forma di responsabilizzazione, la vedo proprio come il senso di dare pieno valore al proprio tempo, alla propria vita, ma anche con rispetto a tutto questo, insomma spesso le reazioni persino del ministro appunto vengono, liquidano alle volte appunto questo atteggiamento come un atteggiamento di scarsa fatica, eccetera eccetera, mentre spesso invece è una riflessione su una possibilità di avere una relazione tempo di lavoro, tempo di vita, tempo di studio diversa, pretendere un tempo di studio di qualità, e questa cosa qui insomma è interessante vedere come questi fenomeni, come devi lavorare, devi studiare, devi fare l'esame, devi essere valutato, eccetera eccetera, non è che si va a fare diciamo una battaglia plateale contro questo sistema, o appunto questo ragazzo non è che si è fatto una protesta collettiva, non si è iscritto a un sindacato degli studenti, non ha partecipato a un movimento, cioè nel senso semplicemente ha manifestato una posizione politica con un preferirei di no, e continua a dire preferirei di no. Questa per me è la parte interessante, e quindi non è che uno può dire ma come, questo sistema che cosa c'ha di sbagliato, devi capire che questo sistema è giusto. L'altra persona dice per me no, una persona deve fare cambiare un comportamento, si può prendere le conseguenze del suo gesto, però vogliamo lasciare una persona che ha fatto invece, ha come dire trovato che evidentemente in quel sistema ci sono delle possibilità di manifestare anche il proprio dissenso, la propria libertà? Beh, insomma io penso che sia un gesto di grande intelligenza e di autonomia anche prendersi la responsabilità di poter non avere un voto così alto perché magari non è quello che interessa in quel momento nella vita.